Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Inizieremo parlando della possibilità di trovare gente in mezzo al mare. Sappiamo già quanto questo sia importante di questi tempi, anche da un po' troppo tempo. Adesso i titoli, benvenuti e benvenuti a Mebius, e i titoli poi cominciamo. Nella difficile e drammatica impresa di individuare le imbarcazioni dei profughi in mare si potrebbe utilizzare un sistema satellitare molto più efficiente di quello attuale. Si chiamano Doro, Coro e Oro, i tre robot della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Fanno la spesa, portano fuori la spazzatura e aiutano gli anziani nella vita quotidiana. La mobilità in Italia a confronto con quella europea e nordamericana. Il rapporto Eurispes ci descrive quanta strada ancora dobbiamo fare. 4 pinguini per ogni albatro e 4 albatri per ogni pinguino. Non è una filastrocca, ma la strategia di nidificazione di due specie che condividono lo stesso habitat. Questa sera con noi abbiamo Marco Gianinetto. Buonasera Gianinetto. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Grazie, lei è ricercatore al Politecnico di Milano, ingegneria ambientale, e in particolare si interessa di telerilevamento, ovvero quei sistemi che abbiamo già da un certo numero di anni, sono sempre più efficaci per riuscire a individuare cose le più diverse dallo spazio utilizzando satelliti. Allora, come lei ha sentito, abbiamo introdotto questa prima intervista, questo primo tema con lei, ricordando il fatto che stiamo vivendo sempre più ore drammatiche con questa povera gente in mezzo al mare su cose che si fa fatica a chiamare barche e che immancabilmente perdono la vita nei modi più diversi. A volte anche c'è addirittura il pericolo che avvicinandosi la nave che li deve salvare sia qualcosa che mette in rischio l'imbarcazione. Voi avete però creato un sistema che riesce a dare molta, ma molta più efficienza nell'individuare queste imbarcazioni. La prima cosa però che dovrebbe spiegarci è che io credo che tutti pensino che con i satelliti è facilissimo e rapidissimo individuare queste imbarcazioni, invece non è così. In effetti, come diceva lei, diciamo che oggigiorno siamo immersi in una serie di, come dire, filmografia hollywoodiana che ci presenta i satelliti come onnipresenti e in grado dallo spazio di leggere la targa dell'automobile, di seguire le persone, magari anche di ascoltare le conversazioni che queste hanno. In realtà non è così, si tratta di finzione, si tratta di film, però le cose non sono così semplici e immediate come appaiono nei film. Sì, nell'immaginario. Tutti le vediamo magari con le applicazioni di Google, Google Earth, certo. Google Maps, per quello ci sembrano veramente alla portata di tutti perché ormai sono entrate nelle case di tutti. Però, ecco, come diceva Federico, il caso ad esempio dei barconi, di queste carrette proprio del mare, il rilevamento è davvero complicato. Cioè non si sa, non si ha immediatamente il segnale di dove sono, non è vero insomma che li si segue puntualmente. Ecco, in realtà questo è una delle questioni, come accennavate giustamente voi, esistono strumenti che sono alla portata di tutti e sembrano rendere queste tecnologie assolutamente semplici alla portata di tutti, però dietro a queste rappresentazioni esiste tutta un lavoro che deve essere fatto e la questione del tempo che trascorre tra le riprese, la disponibilità dei dati e delle informazioni è sicuramente un aspetto cruciale che va considerato in questo tipo di applicazione. Allora, voi che cosa avete pensato? Dunque, noi abbiamo proposto un piccolo progetto per sviluppare la possibilità e l'idea di utilizzare i satelliti che per l'osservazione della Terra che oggi esistono, che volano, a fine umanitario, quindi per supportare le operazioni di soccorso dei flussi migratori nel mare Mediterraneo del Sud. In particolare quello che si propone è quello di mettere a sistema gli asset spaziali esistenti. Questo è un po', come dire, la novità rispetto a proposte e studi che in passato sono stati anche fatti, dove appunto noi suggeriamo la possibilità e valuteremo la fattibilità tecnica di mettere a sistema l'esistente, quindi diversamente da un progetto nel quale si propone di sviluppare e lanciare nuovi satelliti, siccome in ambito europeo oggi esistono già molti satelliti che volano, che ricevono dati, spesso questi satelliti sono anche stati sviluppati con fondi pubblici, per esempio in tutti quei casi nei quali le missioni sono in carico ad agenzie spaziali nazionali, per esempio, e quindi si può pensare, se si vuole, anche un uso etico di questi asset che esistono e di metterli a... Cioè, quindi vediamo se abbiamo capito bene, ci sono già dei satelliti a disposizione, tanti. Voi li mettereste a sistema e insomma avete studiato un metodo, un software per poter mixare i dati che arrivano da tutti questi satelliti, che ovviamente sono tanti e che già ci sono, cioè non ne mandereste altri, giustamente? No, esattamente, questa è l'idea. Quindi l'idea è che noi si studi la possibilità di selezionare tra questi satelliti che già esistono, già volano, quelli che sono tecnicamente idonei e adatti per individuare appunto le barche, la presenza di barche nel mare. Quindi non un solo satellite o due, ma tanti, potrebbero essere una ventina, e poi voi continuate a mixare i segnali che danno e date una continuità. Diciamo che l'idea è esattamente questa, quella di mettere insieme informazioni che provengono da fonti diverse, con caratteristiche diverse, per supportare tutte le operazioni che però sono legate al salvataggio, al soccorso, al supporto. Ma esattamente questo. Il problema della difficoltà è che quando un barcone si trova ad attraversare un tratto di mare e a quel punto il satellite, diciamo, lo individua, i satelliti lo individuano, ecco, poi passa del tempo quando il satellite ci rimanda l'immagine, arriva a voi al software e visualizzate la cosa. È una questione anche di tempo. Qual è la difficoltà? Sì. Assolutamente sì. Allora, ci sono una serie di difficoltà. Esistono difficoltà tecniche, ma esistono anche delle questioni di tempi, come giustamente dicevate, quindi passa del tempo tra il momento nel quale il satellite riprende immagini sul mare e quando queste sono disponibili per l'identificazione degli oggetti, quindi delle barche sulle immagini. Quindi se abbiamo diverse sorgenti, invece questi tempi si accorciano enormemente. Se abbiamo diverse sorgenti, questi tempi si accorciano, non solo, ma si può pensare di andare ad osservare il tratto di mare di interesse in maniera predittiva, cioè sulla base delle osservazioni passate è possibile pensare di programmare le osservazioni che saranno effettuate dai satelliti che si troveranno a passare in tempo successivo sul tratto di mare. Questo è un po' Voi siete un po' nella fase adesso di studio, credo, in questo progetto, insomma, multidisciplinare importante. Chi poi potrebbe usare il vostro software? Beh, diciamo che l'output di questo studio sarà una fattibilità tecnica della messa a sistema di questo asset, e gli utenti finali sono le istituzioni. Beh, finalmente l'Europa dovrebbe essere, no? Non solo le nostre forze, è anche un'occasione per rendere più efficiente l'intervento di tutti i paesi. Assolutamente sì. Questa sarebbe la grande differenza, anche a costi assolutamente abbordabili, no? Credo. Questi satelliti in gran parte esistono. Ci sono. Molte missioni sono anche già programmate o approvate per il futuro, quindi tra satelliti esistenti e satelliti futuri già previsti, come dire, abbiamo sicuramente a disposizione un parco di satelliti orbitanti adeguati per implementare questo tipo di... E in termini di tempi, più o meno, la sperimentazione e poi eventualmente la procedura in opera? Dunque, in termini di tempi, il nostro progetto si sviluppa su un arco di 15 mesi, quindi poco più di un anno. Dovete fare presto, insomma. Esattamente, esattamente. Gianninetto, auguri a lei e al suo gruppo, siete un gruppo di ricercatori del Politecnico, ottima idea, sotto tutti i punti di vista, speriamo di vederla in pratica. Va bene, grazie a voi e grazie. Magari di poterci risentire per certo, raccontarvi quando diventasse eventuali operativo. Aggiornamenti. Senz'altro. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dunque, si chiamano Doro, Coro e Oro. Sì. Ma noi chi è che incontriamo fra qualche giorno? Noi fra qualche giorno incontreremo Doro e stringeremo la mano a lui perché ha un braccio robotico. Ma l'avete già detto, ma l'avete avvisato che lo vediamo. E l'avranno avvisato i ricercatori. Adesso lo chiediamo a uno dei suoi papà. Allora, ci colleghiamo con l'Istituto di Biorobotica, con Manuele Bonaccorsi. Buonasera. Buonasera. Lei è un ricercatore di questo istituto, l'Istituto della Scuola Superiore Santa Sant'Anna di Pisa. Noi spesso andiamo in questo istituto perché il settore della robotica è un settore che ci sta molto molto a cuore, e in particolare non avevamo mai parlato di questi robot domestici badanti, non so, sono stati chiamati in tanti modi, che si chiamano così, Doro, Coro e Oro. Si chiamano Coro, Doro e Oro, adesso ci spiegherà anche perché Bonaccorsi, e fanno parte di un progetto più ampio europeo, per cui ci sono state sperimentazioni anche in altri paesi della comunità europea. Il progetto si chiama Robotera, dico bene Bonaccorsi? Esatto, sì. Ecco. Voglio proprio enfatizzare l'inizio di un'era robotica, diciamo, in cui i robot entrano nella vita delle persone, insomma. Entrano proprio in casa in questo caso. Esatto, in casa e non solo, anche nelle piazze, insomma, nelle strade. Descriviamoli, allora, sono tre robot, voi le chiamate piattaforme robotiche, comunque sono tre robot da vedere, sono proprio robot, insomma, hanno anche gli occhietti e tutto. Li avete chiamati così perché in realtà vivono in spazi diversi. Esatto, sono stati progettati e concepiti ognuno per lavorare nel suo ambiente. Doro è domestico e sta nelle case degli anziani. Coro, condominium, e invece deve stare in un condominio, una residenza sanitaria assistita. Mentre Oro sta outdoor, quindi fuori, viaggia nelle strade, nelle piazze dei nostri paesi, si spera che ce la farà, insomma, entrarci. Allora, sono tre robot differenti perché ovviamente ognuno ha delle caratteristiche specifiche per muoversi in ambienti diversi. Ecco, la cosa interessante è che i robot possono comunicare tra loro, cioè quello che, ad esempio, vive in casa con l'anziano può comunicare con il robot che si muove nel condominio, come quello che invece va fuori. Quindi tra loro comunicano in qualche modo attraverso la tecnologia che adesso lei ci dirà, e allo stesso tempo comunicano anche con l'ambiente. Anche l'ambiente gioca un ruolo fondamentale in questo approccio alla robotica che abbiamo deciso, diciamo, di sperimentare e di valorizzare in questo progetto, perché anche l'ambiente è intelligente, ci permette di espandere le capacità dei robot, perché i robot non utilizzano soltanto i loro sensori, quelli che sono installati a bordo, che possono essere complessi e costosi, ma utilizzano anche sensori più economici, più distribuiti nell'ambiente, che gli permettono di vedere e sentire cose che altrimenti non potrebbero da soli vedere o sentire. Cioè nell'appartamento ci sono dei sensori che comunicano con i robot e quindi c'è un'interazione. Sensori, per esempio, per la sicurezza, per aumentare la sicurezza degli anziani, per le fughe di gas, per la presenza, ad esempio, di persone in più nella casa e che potrebbero essere intrusi, ma anche sensori che permettono di localizzare l'anziano e quindi portare il robot da lui direttamente. Quindi se l'anziano ha bisogno di qualcosa a letto può chiamare il robot, il robot sa dov'è l'anziano e quindi lo raggiunge e gli porta quello di cui ha bisogno, una medicina, una bottiglia d'acqua o semplicemente lo aiuta a chiamare soccorsi oppure a mettersi in contatto con amici, parenti o familiari. Ecco, infatti andiamo agli esempi concreti. Voi questi robot li avete fisicamente, li avete costruiti, li avete sperimentati in due luoghi in particolare, uno qui proprio in Italia, in Toscana, a Peccioli se non sbaglio, e uno in Svezia. I siti sperimentali sono due, appunto, in Italia e in Svezia. Lo scopo era quello di dimostrare che era possibile portare una tecnologia complessa come appunto tecnologie robotiche e information computer technologies anche in luoghi dove il digital divide è importante. Infatti Peccioli è un piccolo paese della campagna toscana, lontano dalle grandi metropoli, insomma, dove piccolino. A banda larga o usufruire di infrastrutture particolarmente costose e complesse. L'altro sito è Orebro in Svezia, in maniera da dimostrare che questi sistemi possono essere utilizzati in contesti sociali molto diversi fra loro, per cui dall'ambiente mediterraneo, diciamo, all'ambiente nordico. E che cosa avete fatto fare? Ad esempio avete coinvolto, credo, degli anziani? Questo è un aspetto fondamentale, perché lo scopo di questo progetto era rendere questi robot veramente accettabili e realmente utilizzabili dalle persone. Per cui sono stati pensati due setup sperimentali diversi e due loop sperimentali diversi, appunto, in due paesi e in due fasi successive del progetto, proprio perché le persone, gli anziani, potessero sperimentare queste tecnologie durante la fase di sviluppo e potessero darci dei feedback, delle risposte, dei suggerimenti per modificarli e migliorarli nel tempo. C'è proprio una coprogettazione. Esatto, si parla proprio di un user-centered design che potrebbe essere anche espanso, perché poi in realtà abbiamo coinvolto anche le persone che utilizzeranno i robot non in qualità di anziani ma in qualità di familiari o professionisti sanitari, e quindi ci hanno anche a loro volta suggerito diciamo, di adottare. Come perfezionare, certo. Ci fa qualche esempio? Beh, i servizi più interessanti sicuramente sono quelli che prevedono la cooperazione di questi robot fra loro e la cooperazione con la persona e con gli ambienti intelligenti intorno a loro, con le reti di sensori, per esempio. E allora abbiamo, per esempio, la spesa, la funzione di portare a casa la spesa o di fare la raccolta differenziata. Per cui, cioè, ad esempio, l'anziano che ha bisogno di andare al supermercato chiede al proprio robot di farlo per lui, cioè nel senso che in qualche modo riesce a programmarlo attraverso un software e gli ordina quello che vuole, mele, latte e caffè. E poi cosa fa? Il robot va a fare la spesa, ovviamente deve essere avvisato anche il supermercato. Esatto, diciamo, il robot, cioè chiaramente, diciamo, l'anziano fa la richiesta di spesa da casa, quindi utilizza una piattaforma, un tablet sul robot, si connette a un web server e questo gli permette di fare la sua ordinazione. Queste informazioni vengono passate ai tre robot che iniziano la fase di cooperazione, per cui il robot outdoor, Oro, e va al supermercato convenzionato, ritira la spesa prenotata su internet perché ha al suo interno un contenitore chiuso che può essere sbloccato per mettere il sacchetto della spesa e poi tornare al condominio. Ah, ok. Al condominio c'è il portinaio robot. Esatto, troverà l'altro robot che a sua volta è una serie di rulli, un carrello per prelevare la spesa automaticamente dal robot che lavora fuori e quindi possono automaticamente scambiarsi il pacco o il sacchetto della spesa senza l'intervento umano, tutto in autonomia. Si riconoscono, si vedono, si approcciano e si scambiano il pacco, diciamo. A questo punto il robot condominio è in grado di prendere un ascensore robotizzato che fa parte dell'ambient intelligence, del sistema domotico. Il condominio deve avere quella struttura lì. Diciamo, è un semplice montacarichi, accessorio. È un accessorio che viene montato ai tradizionali ascensori. Cioè, può utilizzare qualsiasi ascensore con una piccola modifica. Esatto, è una modifica alla scheda di controllo dell'ascensore. Entra, sale al piano dove l'utente ha richiesto la spesa, a quel punto suona. Diciamo, virtualmente bussa la porta sapendo che comunica col robot interno. E arriva Doro. E arriva Doro che comunica all'utente che è arrivata la spesa e quindi può prenderla e utilizzarla, insomma. Quindi sanno collaborare insieme per un obiettivo. Dunque, lo stesso meccanismo al contrario, ad esempio, per portare giù la spazzatura. Doro. Esatto. Si prende il suo sacchettino, lo consegna al portinaio robot, lo porta giù e quell'altro va a conferire. È così? Proprio così. Inoltre il robot esterno può aiutare la persona a camminare perché ha una maniglia e può essere programmato, diciamo, a seconda delle disabilità della persona, per cui la persona può controllare il robot in maniera completa, con un joystick, diciamo. Oppure il robot può usare i suoi sensori per aiutare la persona a evitare gli ostacoli che non ha visto o i pericoli di cui non si è accorto. Sappiamo quanto questo è fondamentale. Senta, posso farle una domanda? Avete pensato al cagnolino e al gatto? Oppure, perché ci sono problemi, avete robotizzato pure quelli? Cioè, nelle nostre case, cani e gatti, com'è la relazione? Sono un elemento di disturbo. Com'è? Il robottino deve sapersela cavare con il cane. Diciamo, in questo caso viene in aiuto sia i sensori che sono all'interno del robot, che gli permettono di riconoscere l'ambiente intorno a sé, quindi non solo telecamere, ma anche dei sensori laser che gli permettono di mappare l'ambiente e essere in grado di evitare gli ostacoli che si muovono, e anche l'ambient intelligence, quindi i sensori in casa che gli dicono dove è l'utente e nel caso ci sia qualche animale che fa scattare i sensori, riconosce la presenza di un possibile animale o di un possibile ospite nella casa, perché quindi segnala la presenza al robot. Lì deve stabilirsi una relazione, certo. Esatto. La finalità di tutto questo, insomma, ci è chiara: facilitare in qualche modo quella che è la vita degli anziani, sia in casa ovviamente, ma abbiamo capito anche per essere accompagnati al parco, quindi fuori. Siete all'inizio, cioè speriamo che la vostra ricerca possa andare avanti e davvero rendere un po' più agevole la vita di queste persone, non solo a Peccioli, ma insomma anche in altri ambiti, in altri comuni. Poi ci sono malati, disabili, ci sono gravi infermità provvisorie, uno potrebbe anche noleggiare per 7-8 mesi un set d'oro, oro e coro. E questa è un'altra interessante osservazione che viene fatta sulla robotica di servizio. L'opportunità di usufruire dei servizi offerti dalla robotica appunto on demand. Questo è un po' anche uno spiraglio che viene aperto dalle nuove tecnologie, quale la cloud computing, e quindi la possibilità di richiedere i robot come servizi, oppure ad esempio semplicemente un ambiente intelligente come un servizio. E quindi qui si entra nel campo della cloud robotics, della cloud networked robotics, che è un campo molto nuovo. E qui è anche interessante pensare ai servizi che si potrebbero implementare, ai nuovi mercati che si potrebbero creare, che oggi sono inimmaginabili, perché la tecnologia spesso viene vista come qualcosa che si sostituisce all'uomo. In questo caso questo è proprio una cooperazione. Esatto, il robot coopera con le persone, non le sostituisce, ma ne aumenta le capacità, e quindi potenzialmente potrebbe anche aumentare le possibilità di creare nuovi mercati, nuovi servizi che finora sono inimmaginabili. Diciamo, è un aspetto che ancora non è stato investigato molto, questo della robotica di servizio nelle case e anche al di fuori delle case. In 30 secondi, l'esperienza che avete avuto è piaciuta agli anziani? Gli anziani sono stati molto contenti di essere coinvolti nelle sperimentazioni, ci hanno sempre fornito dei feedback molto interessanti, sia per aiutarci a sviluppare design sempre migliori, sia per migliorare le tecnologie a bordo dei robot. È un'esperienza molto positiva. Molto positiva, immagino. Allora, per chi fosse curioso, noi l'abbiamo detto all'inizio che incontreremo Doro nei prossimi giorni. Se anche voi ascoltatori voleste incontrare noi e Doro, allora ci vediamo giovedì prossimo 10 luglio intorno alle ore 14 a Firenze, a SMAU, nella fiera diciamo di Firenze, che è in centro città, e mostreremo Doro al pubblico e racconteremo questo bel progetto. Grazie e davvero in bocca al lupo per la ricerca. Buon accorsi. Grazie a voi. Avvisi Doro, Avvisi Doro, così vi stringe la mano e vi riconosce. Arrivederci e buona ricerca. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. City Tech, appuntamento dedicato alle tematiche dei trasporti, si è appena concluso a Roma, ci sarà un altro meeting a Milano a ottobre. A Roma è stato presentato a City Tech il rapporto sui trasporti, sulla mobilità redatto da Eurispes, ente che opera nel campo della ricerca politica, economica, sociale da più di 30 anni. A Luca Masciola, che dirige l'osservatorio di Eurispes sulla mobilità, abbiamo chiesto di raccontarci alcune parole chiave di questo rapporto. Partiamo dal titolo di questa ricerca. Innanzitutto noi abbiamo voluto fare un libro bianco, ma con un focus specifico alle grandi aree metropolitane. Ogni viaggio su due si realizza in un'area urbana, e le aree urbane sono quelle che hanno avuto un'esplosione, diciamo, non solo demografica dovuta alla crescita demografica propriamente detta, che ormai soprattutto nel nostro occidente si è abbastanza stabilizzata, quanto un'esplosione della volumetria dedicata all'abitazione. Abbiamo scelto due o tre città italiane, meglio Roma, Milano e Napoli, che da sole rappresentano il 25% del PIL del nostro paese, quindi non sono poco rappresentative, le abbiamo confrontate tra loro e confrontate col mondo. Ebbene, i nostri dati di motorizzazione sono già da soli allarmanti. Noi abbiamo 610 automobili ogni 1000 abitanti, media nazionale delle grandi aree urbane. Se si pensa a Roma si sta intorno alle 700. Si sa. Esatto, il che vuol dire che abbiamo quasi un'auto ogni 1,4-1,3 più di... scontando i bambini, le persone particolarmente anziane e i non patentati, vuol dire praticamente tutta la cittadinanza romana è una macchina. Questo vale moderatamente, mediamente, anche per Napoli e Milano. Alcune punte sono impensabili, come a Firenze, cioè le uniche città che si scostano sono Venezia, che per ragioni direi comprensibili. E questo è il primo dato allarmante. Se andiamo in altre situazioni, per esempio, non so, Berlino. In Germania la media è intorno ai 520 automobili, quindi 200 in meno di quelle di Roma. Parigi e Madrid sono intorno alle 470 automobili, quindi meno delle 200 che abbiamo appena detto. E la famosa frenetica New York? A New York è un dato magnifico, il 46% della popolazione di New York possiede un'automobile. E siamo, come dire, nella patria dell'automobile. I trasporti pubblici non sono stati dietro. La sola Madrid ha un'estensione di metropolitana superiore alla somma delle metropolitane di tutte quelle che abbiamo. La sola Madrid. E Madrid, come dire, le ha cominciate a costruire più o meno in periodo coevo rispetto a quello delle nostre città. Ci sono stati degli investimenti evidentemente diversi. Anche per la logistica, cioè i trasporti logistici, anche lì siamo... Là siamo... Il trasporto logistico cittadino, per le ragioni che dicevo prima, cioè questa altissima percentuale di popolazione che si concentra nelle aree metropolitane, determina che è proprio lì che si realizzi una quota rilevante di trasporto, cioè anche statisticamente per quanto riguarda i nostri dati, i trasporti sia per tonnellate che per chilometri veicolo nei trasporti al di sotto dei 50 km, quindi quelli che interessano le città, rappresentano il 60-70% del trasportato complessivo, un trasportato che però vede nella città la parte meno efficiente, il cosiddetto ultimo miglio. Esatto. E qui di nuovo la forbice rispetto all'Europa, sia in termini di trasporto propriamente detto che di immagazzinamento, i nostri load factor sono più bassi rispetto a quelli delle medie europee, con uno spread tra noi e loro che viaggia tra il 20 e il 30%, quindi sono dei costi particolarmente elevati. Di nuovo lì il gioco del causa effetto. A Parigi e a Berlino le prime 10 aziende che fanno trasporto hanno in mano il 40% del mercato. Noi sfioriamo il 15-20%. Il nostro mercato estremamente disperso, diffuso, polverizzato è quello che, come dire, tradizionalmente definiamo dei padroncini, cioè microimprese, imprese individuali, quindi spesso legate a logiche di redditività molto dirette, molto immediate, che determinano anche scelte trasportistiche alcune volte a fortissimo impatto ambientale. È difficile convincere un singolo responsabile, un singolo padrone di un mezzo di sostituirlo investendo alcune decine di migliaia di euro per avere un mezzo a minor impatto. Noi certamente possiamo dire che la necessità di cambiare le cose qui descritte è importante per la qualità della vita, è importante per la sostenibilità, che sono problemi sulle quali bisogna assolutamente intervenire. Però quello che esce dal vostro rapporto è che, per dirla in modo estremamente rapido, buttiamo via una quantità di soldi impressionante. Cioè, se noi riusciamo a cambiare queste cose, il paese si trova con cifre in euro impressionanti. Com'è che vengono fuori questi conti, questi numeri? Noi ci siamo, come dire, adoperati a cercare di calcolare le cosiddette esternalità da trasporto, ovvero tutti quei costi che non sono direttamente quelli del trasporto propriamente detto, concentrandoci su quelle voci sulle quali convergono diverse centrali di analisi e di studio, sia di ambiente che di incidentalità. Ebbene, se noi ci concentriamo proprio su quelle 3-4 voci che fanno la maggior parte, come dire, sulle quali convergono queste valutazioni, quindi da un lato i consumi di carburante. I consumi di carburante del trasporto pubblico sono anche del 65% più bassi di quelli del trasporto privato. Un mezzo muove l'equivalente di 80 macchine, 70 macchine, quindi questo è immediatamente sensibile. L'incidentalità, tutti gli incidenti diretti e indiretti, le malattie connesse, le mortalità e i danni patrimoniali e tutto il tema della pollution, tutto il tema dell'inquinamento da CO2. Questi costi per l'Italia valgono, ripeto, dati ragionati sempre sulle sole voci su cui convergono i principali istituti di ricerca e sul tacco delle forbici, del DA-A, ebbene valgono 50 miliardi di euro. Se noi con un progetto riuscissimo a portare il nostro tasso di modernizzazione dall'attuale 610 mezzi al medio i 470 europei, noi porteremmo a casa risparmi per circa 14 miliardi di euro. E poi immagino che ci sia anche da calcolare il risparmio che viene dal fatto che le singole famiglie hanno una cultura e un utilizzo dei mezzi diversi. Questo senza dubbio. Le famiglie italiane mediamente impegnano circa il 13% del loro reddito per la gestione, manutenzione e l'ordinaria gestione di un'automobile privata. In molte famiglie questa percentuale cresce quasi del doppio. Va bene, allora direi che abbiamo visto, no, il quadro critico. Adesso come siamo messi, cioè cosa stiamo facendo? Stiamo facendo qualcosa che vada da quella parte? Allora, le esperienze più cosiddette best practice internazionali mostrano che la soluzione più opportuna è quella di superare il contrasto tra, meglio, la dicotomia mezzo pubblico verso mezzo privato, e quindi realizzare da parte delle amministrazioni una pluralità di offerte trasportistiche e quindi consentire effettivamente al viaggiatore cittadino di poter immaginarsi nel trasporto tra un punto A e il punto B su una pluralità di soluzioni che hanno sicuramente all'interno anche la propria auto di proprietà, però dentro un'altra serie di offerte alternative che lo liberino dall'angoscia dei tempi di trasporto, sui tempi d'attesa di un bus. Quindi non soluzioni, esatto, rigide. E su questo si sta cominciando a vedere qualcosa. Milano ha aperto, come dire, il solco, ha fatto il primo solco con l'Aratro, con il suo progetto di car sharing, anche con la zona C, che insomma dà buoni risultati. Del dibattito iniziale, come sempre accade per le ZTL, sta dando dei risultati positivi. Stessa cosa per il bike sharing. Roma sta seguendo, e il successo che sta avendo a Roma era immaginabile, ma non c'era da scommetterci che ci fosse questa adesione così ampia. Questa è una delle risposte possibili. Alcuni critici affermano che, trattandosi comunque di motori a scoppio verso motori a scoppio, ciò non determini particolari differenze, e questo va però letto con un po' di, come dire, con tutti i colori dell'arcobaleno. I mezzi in car sharing sono tendenzialmente mezzi nuovi a minor impatto, e sicuramente i tragitti sono i tragitti indispensabili. Il parcheggio è possibile all'interno delle ZTL, il trasferimento è possibile all'interno delle ZTL, quindi è un trasporto che è meno consuming sia in termini di carburante sia in termini di tempo. Ecco, ma cos'è la Cenerentola? Perché effettivamente i dati sul car sharing in alcuni centri sono buoni, ma poi tutto il resto, logistica. Allora, sulla parte logistica, sia le ZTL sono state gestite correttamente per la riregolamentazione del traffico logistico. I passi ulteriori da fare sono quelli di accompagnare questo a delle tariffe. Qua in Italia abbiamo fatto delle esperienze a Lucca, di nuovo a Milano, qualcosa a Roma, sul sistema di tariffazione. Faccio un esempio: il prezzo da pagare per entrare in città dipendentemente dal tipo di motorizzazione che ha il veicolo, e questo se si ha, come dire, una focalizzazione sull'impatto ambientale. Sull'impatto traffico e, come dire, convergenza sincrona dei mezzi, lì altri passi si possono fare tariffando differentemente le fasce orarie, quindi ci sono esperienze in Europa in cui i mezzi possono entrare fino a una certa ora, quindi prima che ci sia il picco del trasporto privato, e avere quindi una tariffazione molto più bassa o addirittura azzerata. Poi ci sono altre, dicevo, possibilità che sono comunque tutte nelle nostre disponibilità, che sono, come dire, già mutuabili da altre realtà, quindi fare dei parcheggi di scambio all'interno delle aree metropolitane, delle aree centrali, delle aree storiche, per cui il mezzo arriva, scarica e riparte, entro una certa fascia non paga, superata una certa fascia oraria comincia a pagare. Insomma, il sistema di tariffazione può essere modellato esattamente acconciato come il sistema dei costi esterni, a compensarli. Quindi da un lato, come dire, la messa a disposizione di soluzioni e di infrastrutture, e dall'altro un sistema di tariffazione che sposti la domanda verso quei processi. Vi dicevo all'inizio di questa intervista di CityTech, questo appuntamento che è appena finito a Roma, ma ci sarà a ottobre anche a Milano. Bene, in occasione di questo appuntamento viene lanciata quella che si chiama una Call for Ideas, una grande raccolta di idee aperta a tutti per far emergere proposte e suggerimenti da sottoporre direttamente alle istituzioni, al governo. La call è aperta a tutti: aziende produttrici di tecnologie, associazioni di volontariato e di promozione sociale, fondazioni, studi professionali, esperti del settore, insomma davvero tanti. Devono arrivare le proposte e i suggerimenti in 140 caratteri massimi, ormai è così, dovranno essere inviati tramite il form online sul sito www.citytech.eu. Ma per questo vi rimandiamo, anche perché c'è un'altra proposta, un altro concorso, vi rimandiamo al nostro sito www.moebiusonline.eu, lì troverete tutte queste indicazioni e troverete anche un video dedicato a queste tematiche e una sintesi del rapporto Eurispes, sono una ventina di pagine, lì avrete anche i dettagli maggiori di queste chiamate per idee e progettazione. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Che cos'è l'albatro? È quello che il pinguino sogna da sempre di essere. Magari anche il contrario, magari anche l'albatro sogna di vorrebbe essere un pinguino. Un pinguino. Ma non lo sappiamo. Invece pare che i rapporti non siano così, no? E in realtà è una via di mezzo, nel senso mezzo, che magari non si possono vedere, ma devono convivere. Cioè, devono vedersi, ma non troppo. Esatto, ma ora, vedremo di che cosa si tratta. È una bella ricerca che è stata fatta all'Università degli Studi di Milano. Intanto direi, presentiamo il nostro ospite e poi vi faccio sentire un audio. Buonasera, Fabio Giavazzi. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Lei lavora al Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell'Università degli Studi di Milano. Si è un po' divertito anche, possiamo dirlo, a fare questa ricerca. Non anticipiamo niente perché sentiamo un pezzo di Edgar Allan Poe. L'albatro è uno degli uccelli più grandi e voraci dei mari del sud. Appartiene alla specie dei gabbiani e coglie la preda al volo, senza posarsi mai a terra se non al tempo della cova. Tra questo uccello e il pinguino esiste un'amicizia molto singolare. Essi costruiscono il nido con estrema metodicità, seguendo un piano concertato congiuntamente dalle due specie. L'albatro nidifica in mezzo a un piccolo quadrato formato dai nidi di quattro pinguini. Quando arriva la stagione della cova, gli uccelli si riuniscono numerosissimi e per alcuni giorni sembra che discutano su come procedere. Poi si mettono all'opera. Terminate queste operazioni, gli uccelli procedono di comune accordo, come guidati da un'unica mente, a tracciare con precisione matematica un quadrato oppure un parallelogramma, a seconda di quale dei due si adatti meglio alla natura del terreno, di dimensioni sufficienti a ospitare con agio tutti gli uccelli riuniti, ma nessuno di più. L'operazione successiva consiste nel dividere l'intero spazio in piccoli quadrati di uguale dimensione. Ciò viene fatto creando dei passaggi stretti e ben livellati che si intersecano ad angolo retto su tutta la superficie della scacchiera. A ogni punto di intersezione di questi passaggi viene costruito un nido di albatro e al centro di ogni quadrato un nido di pinguino, cosicché ogni pinguino si ritrova circondato da quattro albatri e ogni albatro da un numero uguale di pinguini. Allora Federico, hai capito? Quattro. È una scacchiera. Sì, esatto, è una scacchiera, per cui ogni pinguino ha accanto quattro albatri e viceversa ogni albatro ha accanto quattro pinguini, però creano una rete perfetta. Una maglia proprio. Esatto, una maglia. Dunque, Giavazzi, ci spieghi lei di che cosa si tratta e soprattutto possiamo dire che questo era un racconto, l'abbiamo detto prima, di Edgar Allan Poe, Le avventure di Arthur Gordon Pym, dei primi 1837, quindi prima metà dell'Ottocento, e invece voi ci siete tornati adesso, avete analizzato delle foto aeree delle Falkland, dove in effetti ci sono delle popolazioni che vivono, che convivono con i pinguini, e avete osservato la stessa identica cosa, davvero creando questa maglia precisissima, rigorosissima. Beh, diciamo, la descrizione che Poe fornisce, diciamo, è basata quasi solo, diciamo, principalmente su elementi di fantasia. Però effettivamente dallo studio delle non moltissime foto aeree che sono disponibili di questo tipo di sistemi, si osserva che effettivamente queste due specie così diverse nidificano negli stessi posti, per cui davvero si dividono fraternamente la stessa area di nidificazione e le strutture che formano non sono una scacchiera perfetta come quella descritta da Poe nel suo romanzo, ma rispettano comunque abbastanza in dettaglio questa simmetria, per cui ogni pinguino si trova attorniato in media da quattro albatri e viceversa. E che distanze sono però? Cioè... dell'ordine di pochi metri. Ah, pochi metri, quindi una maglia abbastanza fitta. Sì, diciamo che allora nel racconto ovviamente diceva che gli angoli erano perfettamente a 90 gradi, cioè, ecco, ovviamente sta. In natura non è così, però davvero ogni specie si attornia di quattro individui dell'altra specie e in questo modo, diciamo, convivono, non vanno d'accordo però, semplicemente hanno una sovrapposizione di habitat. Sì, è così, e forse uno dei risultati, diciamo, più interessanti del nostro lavoro è stato che dimostrare in modo abbastanza semplice che questa, diciamo, così armoniosa distribuzione che raggiungono, appunto, non è il frutto di un accordo preventivo tra le due specie, ma invece si genera spontaneamente attraverso la repulsione tra individui di due specie diverse. Ecco. Mm. Che però non diventa aggressione, cioè non è che quella maglia improvvisamente si trasforma in una zuffa pazzesca. No, al contrario, rappresenta, diciamo, il modo più migliore e più stabile di convivenza di due specie che non si piacciono, in un certo senso. Ma scusi la domanda un po' banale, ma non sarebbe più facile e conveniente dividersi la spiaggia, la scogliera, in due? Io sto di qua, tu stai di là e non dobbiamo per forza stare vicini. Questo richiederebbe probabilmente un'organizzazione di livello piuttosto elevato, per cui davvero dovrebbero mettersi d'accordo i diversi individui. Se invece assumiamo che ogni individuo pensi in modo del tutto egoista solo per sé, diciamo, a ritagliarsi il suo quadratino dove nidificare, beh, allora quello che succede è che questa separazione non avviene su scala grande, quindi tutti i pinguini da una parte e tutti gli albatri dall'altra, ma su scala piccola. Ogni pinguino si ritaglia il suo giardinetto libero da albatri e viceversa. Ecco, ma senta, qui si dice che non vanno d'accordo, però ci sono stati studi e ci sono anche un sacco di belle foto, per esempio degli uccellini sui fili elettrici che stanno tutti a una spanna uno dall'altro, ma sono anche della stessa specie, però sembra, dovrebbero andare d'accordo, no? Però sembra che vogliano mantenere comunque una certa distanza. Noi siamo sicuri che gli albatri e i pinguini non si piacciono? Diciamo, non hanno interazioni significative, per cui, e soprattutto si riuniscono su queste scogliere nel momento della cova e della costruzione del nido, in cui è un momento delicato. Diciamo, particolarmente delicato, in cui diciamo gli individui tendono ad essere particolarmente un po' egoisti, giustamente. Però potrebbero essere anche meno così in contrasto di quello che pensiamo, cioè non hanno rapporti di vicinanza, questo è quello che voi notate, ecco, certo. Esatto, non hanno delle interazioni esatto. Esplicite. Diciamo. Questo fa pensare che abbiano dei problemi, ma qui stiamo parlando di decine di migliaia di animali che si mettono in rete, cioè non sono 20, no? No, le colonie, ripeto, la documentazione fotografica disponibile su questo tipo di sistemi è abbastanza scarna, le foto che abbiamo sono di alcune centinaia di individui. Ah, sono gruppi. Voi avete studiato delle foto aeree delle Falkland, se non sbaglio, sì, giusto? Sì. Quindi sono gruppi di qualche centinaio messi in rete e poi ne trovate altri gruppi così, cioè non sono tutti, sono, come dire, delle isole. Sì, che appunto principalmente la dimensione di una colonia è dettata, diciamo, dalla estensione dell'area disponibile. E senta, avete pensato anche a una spiegazione evolutiva? Cioè lei diceva, certo, devono convivere, quindi trovano il metodo, diciamo, più conveniente e più pratico. È questa un po' la spiegazione evolutiva che vi siete dati? Sì, direi di sì. Probabilmente questo tipo di habitat ha delle caratteristiche favorevoli per entrambe le specie. Cioè, lì devono stare. Ecco. Esattamente. E questo è probabilmente una strategia efficace che permette ad entrambe le specie di stare nel posto in cui vorrebbero. Posto. Si cibano degli stessi animali, perché il pinguino prende pesciotti e pure l'albatro con sistemi diversi, però lì sono in concorrenza. Sì, però penso che, dato che queste colonie sono costruite vicino al mare, l'accesso al cibo non sia un problema. Ce n'è in abbondanza. Poi per parliamo tutti di zone, ovviamente, dove credo ci siano mari e oceani pescosissimi, immagino. Per quanto ne so, sì. Beh, sono poco trafficate e quindi c'è una presenza di fauna ittica che non c'è certo dalle altre parti. Beh, insomma, un po' di misteri restano, però molto è stato capito. Beh, però vedi, in università tra fisici, lei lavora in biotecnologia, vi divertite un po' a fare queste ricerche un po' fuori dal tradizionale, o no, Giavazzi? Sicuramente sì, sicuramente. L'origine di questa, diciamo, di questa ricerca è partita da molto lontano, in realtà, perché io con il mio collega Alberto Ailati ci occupavamo di fluidi, cui dello studio di moti convettivi all'interno di un fluido in ebollizione, e avevamo tracciato un diagramma delle posizioni in cui si trovavano, diciamo, i flussi ascendenti e discendenti all'interno di questo fluido. Quando il nostro collega l'ha visto, ha detto: questa sembra la distribuzione dei pinguini. Oh, aveva letto Edgar Allan Poe, però, il suo collega. Stava leggendo, era un periodo in cui, andando avanti e indietro dal lavoro sul pullman, leggeva Le avventure di Gordon Pym. E quindi questa ricerca ha preso tutta un'altra direzione. Abbiamo scoperto diciamo tutto un mondo che non... Bene, non, bene, non, ecco, questo ci fa molto piacere. Se vada dai suoi colleghi di sociologia e psicologia, però, c'è una scienza, la prossemica, che studia le distanze tra gli umani. E quindi può diventare un progetto multidisciplinare non indifferente. Esatto, prendiamo tanti pinguini e vediamo come ci disponiamo noi in relazione ai pinguini. No, vabbè, intanto Limbicocca, avete spazio. Complimenti anche per la curiosità. Buon lavoro e ci sentiamo presto. Se avete qualche altra ricerca così che vi stuzzica, noi siamo qui per raccontarla. Grazie molto. Grazie, arrivederci. Certo che lasciamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici con un bel mistero. Con un bel mistero. Quest'estate andranno alle Falkland per vedere albatri e pinguini che convivono. Ma anche sulle spiagge disponetevi a una certa distanza. Fate delle prove. Va bene. Allora, abbiamo finito tutto? Buona settimana a tutti. E a tutte, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!